Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice aveva quasi raggiunto la casetta nel bosco quando uno stranissimo lacchè la sorpassò correndo verso la porta della casa. Era abbigliato con l'eleganza che si addice ad un servitore regale, ma al posto della faccia aveva un muso di pesce. Bussò alla porta, che venne immediatamente aperta da un altro lacchè dal muso rotondo e dai grandi occhi di rana. Per la duchessa, un invito da parte della regina per una partita di croquet, disse il lacchè pesce solennemente. Consegnò una grossa busta e si inchinò profondamente. Il lacchè rana si inchinò nello stesso momento e i riccioli incipriati delle loro parrucche si ingarbugliarono gli uni con gli altri. Alice rise così forte che temette di essere stata udita e corse a nascondersi nel bosco. Quando osò fare capolino da dietro un albero, il lacchè rana era solo, così si fece avanti timidamente e bussò alla porta. «È inutile bussare», disse il lacchè rana. «Prima di tutto perché anch'io sono fuori dalla porta e poi perché dentro fanno tanto rumore che nessuno potrebbe udirla». Infatti, un baccano incredibile proveniva dall'interno, uno strillo continuo, un sonoro starnutire e ogni tanto un fortissimo fracasso di roba rotta. «Ma la prego, come faccio allora a entrare?» chiese Alice. «Perché deve proprio entrare?» rispose il lacchè. «Oh, è inutile che parli con quello!» pensò Alice. Aprì la porta ed entrò direttamente in una grande cucina piena di fumo. La duchessa, seduta su uno sgabello a tre zampe in mezzo alla stanza, stava cullando un bambino e la cuoca, china sul fuoco, rimescolava un pentolone di zuppa. Alice cominciò a starnutire. «In quella minestra ci deve essere troppo pepe», pensò. La duchessa starnutì e il bambino starnutì e strillò. Gli unici in cucina che non starnutirono furono la cuoca e un grosso gatto che stava seduto vicino al focolare con un sogghigno che gli andava da un orecchio all'altro. «Per piacere, vorrebbe dirmi perché il suo gatto sogghigna in quel modo?» chiese Alice. «Perché un gatto del Cheshire, ecco perché!» rispose la duchessa. «Non sapevo che i gatti del Cheshire ridessero sempre», osservò Alice. «Non sai un bel niente, tu! Questo è un fatto certo!» ribatté la duchessa. La cuoca cominciò a gettare addosso alla duchessa tutto quel che le capitava. «Porco!» gridò la duchessa. E cominciò a cantare una specie di cantilena dondolando violentemente il bambino da una parte all'altra. «Maltratta il piccino e battilo se starnutisce, egli è tanto noiosino che altrimenti non capisce!» «Ehi, ragazzina!» fece scaraventando il bambino addosso ad Alice. «Potresti cullarlo tu per un po'? Io devo andare a prepararmi per giocare a croquet con la regina!» Alice, con il bambino in braccio, uscì all'aperto. Il bambino grugnì forte e quando Alice lo guardò si accorse che si stava trasformando in un porcellino. Lo pose per terra e rimase a guardarlo mentre si allontanava trotterellando. Quando rialzò gli occhi, vide il gatto del Cheshire seduto su un ramo che sogghignava. «Micino Cheshire», disse, «mi piacerebbe tanto far visita a qualcuno. Puoi dirmi chi vive qui intorno?» «Da quella parte», disse il gatto indicando con la zampa destra, «vive il cappellaio, e da quell'altra e indicò con la zampa sinistra. Vive la lepre marzolina. Sono matti entrambi. Ma io non voglio avere a che fare con i matti, protestò Alice. Oh, non potrai farne a meno. Siamo tutti matti. Qui io sono matto, tu sei matta, devi esserlo, altrimenti non saresti venuta qui. E il gatto svanì lentamente, cominciando dalla punta della coda e finendo col sogghigno. Alice si incamminò nella direzione in cui viveva la lepre marzolina e ben presto arrivò alla sua casa. In giardino c'era un lungo tavolo attorno al quale la lepre marzolina e il cappellaio stavano prendendo il tè. I loro gomiti poggiavano su un ghiro seduto fra loro due, profondamente addormentato. «Oh, non c'è posto!» «Sì, non c'è posto!» gridarono non appena si accorsero di Alice. «C'è moltissimo posto, invece!» fece Alice indignata e si sedette in una grande poltrona a un capo del tavolo. «Si serva un po' di vino?» offrì la lepre marzolina. Alice si guardò intorno. «Ma qui non c'è vino!» disse. «No, non ce n'è!» replicò la lepre. «Allora non è davvero molto educato da parte sua offrirne!» disse Alice arrabbiata. «E non è stato molto educato da parte sua sedersi senza essere invitata!» Il cappellaio prese l'orologio dal taschino e se lo portò all'orecchio. «O che giorno del mese è?» chiese rivolto ad Alice. «Il quarto!» «È indietro di 2 giorni!» sospirò il cappellaio. «E te l'avevo detto che il burro non gli avrebbe fatto bene!» protestò rabbiosamente con la lepre marzolina. «Ma era burro della miglior qualità!» si difese dolcemente la lepre marzolina. «Eh sì, ma ci devono essere entrate anche delle briciole!» «Cambiamo argomento!» disse la lepre marzolina. «Scommetto che questa damigella ci racconterà una storia!» «Temo proprio di non conoscerne!» fece Alice nervosamente. «Allora lo farà il ghiro!» dissero entrambi e all'unisono lo pizzicarono uno per parte e quello aprì lentamente gli occhi. «O raccontaci una storia!» disse il cappellaio. «E fai presto, altrimenti tu ti riaddormenterai prima d'aver finito!» «C'erano una volta 3 sorelline!» cominciò il ghiro in gran fretta. «Che vivevano in fondo a un pozzo.» «Perché?» chiese Alice. Dopo una lunga pausa il ghiro continuò. «Era un pozzo pieno di melassa. E queste 3 sorelline stavano imparando a disegnare.» «Che cosa disegnavano?» chiese Alice. «Melassa», rispose immediatamente il ghiro. «E tutte le cose che cominciano con M, come museruola, montoni e mistero. Hai mai disegnato un mistero tu?» «Beh, lasciami pensare», esitò Alice. «Credo proprio di no.» «Allora tu sta zitta», disse il cappellaio. Questa sgarberia era più di quanto Alice potesse sopportare. Si alzò per andarsene e il ghiro si riaddormentò all'istante. Quando Alice si voltò a guardare quei due, stavano cercando di ficcarlo nella teiera. «Questo è il tè più stupido a cui abbia mai partecipato», disse Alice. Mentre parlava, si accorse che in uno degli alberi c'era una porta che conduceva al suo interno. «Che cosa curiosa!» pensò. «Ma già, oggi tutto quello che mi capita è curioso. Beh, farò bene ad entrare subito lì dentro.» E oltrepassò la soglia.